piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Mezzi blindati, polizia, carabinieri e vigili urbani. Uno spiegamento di forze per controllare poche centinaia di metri. Una piccola strada, quella dei locali della Vucciria, che ha fatto scalpore per gli assembramenti che sono tornati con la riapertura dei pub. All'ora dell'aperitivo gli agenti presidiano tutti gli accessi. Le forze dell'ordine fanno allontanare chi staziona davanti alle birrerie e invitano a tenere la distanza di sicurezza. Ci sono attimi di tensione. Se allontanate i clienti, io devo chiudere, urla uno dei gestori delle taverne. Ma con chi vuoi lavorare? Alcune saracinesche si abbassano per protesta. La Vucciria è un posto particolare, sicuramente non c'era niente di questo al mondo, cioè è un posto anche un po' anarchico, ma che ha dell'affascinante, però non mi sembra il momento in cui ci si può ritrovare tutti assieme, ammassati, assolutamente no. Tenere una certa distanza, chiaramente ora sto bevendo con la mascherina, non posso bere, però quando mi trovo a diretto contatto con molte persone, ecco, magari tenerla, questo sì. Spritz e gel igienizzante, il nuovo must dell'aperitivo. È indubbiamente il problema del giorno, se ne parla nelle prime pagine di quasi tutti i quotidiani italiani, è stato riaccennato poco fa anche dal presidente Conte, che ha ribadito il suo concetto, l'ha già espresso ampiamente ieri, non è finita, non è che il Covid è stato debellato e soprattutto non è tempo di party e di movida. C'è stato anche un invito alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, perché vengano inasprite le sanzioni, aumentati i controlli. D'altronde arrivano segnalazioni ormai da tutti i centri Movida più importanti d'Italia, da Padova, da Palermo, come avete sentito in questo servizio del TG3, ma anche da Milano, da Venezia, da Firenze, da Potenza addirittura, dove non si può che registrare le immagini di ragazzi, soprattutto ragazzi, che sembra che abbiano abbandonato l'idea che ci possa essere un pericolo. Soprattutto a Padova, in fila, in un posto classico di ritrovo di ragazzi nel centro storico, un locale anche rinomato, tutti lì in fila per farsi lo spritz senza mascherine, con il bicchiere in mano, come hanno sempre fatto. Ora, il problema è senz'altro importante. Se noi pensiamo che in realtà, come già alcuni indicatori ci stanno segnalando, e come già noi avevamo, senza voler fare naturalmente disfattisti, anticipato qualche giorno fa, c'è il rischio che se si abbassa il livello di guardia e di attenzione ci si ritrovi ancora una volta di fronte alla necessità di tornarsi a chiudere dentro casa, cosa che nessuno si auspica e nessuno vuole. D'altronde c'è un problema oggettivo: come fare a spiegare ai ragazzi che non hanno avuto generazionalmente gli strumenti per gestire una situazione così di crisi, per immaginarsi che la loro vita potesse cambiare, che tutto quello che gli veniva assicurato come piacevole routine quotidiana potesse anche essere messo sotto precarietà da delle circostanze gravi che interessavano tutti. E quindi i ragazzi dicono: beh, che volete da noi, ma noi siamo giovani, se anche ci pigliamo il Covid che ci importa, non ci succede niente, i vecchi stiano dentro casa e noi abbiamo bisogno di riprendere quelle che sono le nostre abitudini, socializzare, di vederci, di confrontarci, di abbracciare gli altri. Improvvisamente siamo diventati tutti dei grandi abbracciatori. L'abbraccio, che faccia parte delle ritualità inconsapevoli delle nostre relazioni personali, intime, sociali e anche, diciamo, formali, sono diventate assolutamente delle necessità inderogabili. Necessità inderogabili sono quelle dei bambini che devono andare a scuola e socializzare, necessità inderogabili sono quelle delle persone che devono andare al mare, in vacanza, in montagna, necessità inderogabili che hanno il diritto di farsi una corsetta nel parco. Insomma, era prevedibile che, come si riaprissero un attimo i serragli, le porte del serraglio, le persone improvvisamente mettessero in primo piano le loro esigenze personali. E con i giovani non è un problema assolutamente da dover tenere in secondo piano, come se fosse trascurabile. Quindi oggi cercheremo con addetti del settore, non abbiamo esperti, abbiamo persone che stanno a contatto con i giovani, perché sono lavoratori della notte, sono persone che hanno esercizi, hanno bar, hanno luoghi di ritrovo, hanno luoghi dove si fa musica, dove la gente si incontra, per cercare di capire come loro se esiste una soluzione a questa difficile equazione. Cioè, da un certo punto di vista, non dare un messaggio frustrante e eccessivamente penalizzante alle generazioni che poi dovranno essere il fondamento della ricostruzione di un paese che si avvia in maniera molto faticosa a uscire da una crisi che abbraccia tutti i settori, dall'economia alla socialità, al lavoro, alla scuola. Ecco, come si fa a dire ai giovani tornate dentro casa oppure andatevi a fare lo spritz con la mascherina in faccia? Ieri abbiamo visto che è impossibile sposarsi con la mascherina, figuriamoci se è possibile fare le operazioni di normale avvicinamento a piacevoli d'azioni notturne. 800 24 0024, a voi. Ci sono 2500 aziende che operano nel settore dell'intrattenimento, del quali 410 di queste 2500 sono nella regione Lombardia e 110 sono a Milano. Quindi tu immagina l'impatto che ha tutta questa problematica di Covid-19 su una città come Milano. Milano conta dei locali che sono storici. L'Old Fashion esiste dal 1933, ha superato la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo superato i nazisti quando venivano qua a ballare, lo chiamavano Balaus, abbiamo superato gli anni di piombo, la mafia, gli anni 90. Essere fermati da un virus è sinceramente quanto di più bizzarro potessimo mai immaginare potesse accadere alle nostre attività. Questo era il titolare dell'Old Fashion di Milano, che da Repubblica.it parla dei danni delle chiusure alle discoteche, e che naturalmente hanno anche loro delle attività commerciali a salvaguardare. Però come si fa a questo punto a capire qual è la giusta maniera per permettere anche delle attività commerciali, che hanno diritto come gli altri di mantenersi in vita, di poter continuare a gestire quello che è il loro quotidiano, permettere ai giovani comunque di non pensare che stanno in periodo di guerra, allo stesso tempo salvaguardare la salute pubblica tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza. Sembra molto difficile da capire. Sentiamo qualcuno delle persone che noi abbiamo chiamato per risponderci a questa domanda. Nei limiti del possibile non esistono formule magiche, ma vorrei che voi mi rispondeste dal vostro osservatorio di ascoltatori. Ci sono ragazzi, l'abbiamo visto una volta, che abbiamo convocato soltanto persone sotto i 30 anni che ci ascoltano. Cerchiamo di capire come l'osservare delle loro ritualità sociali possa in qualche maniera conciliare quello che sono le necessarie misure di sicurezza. 800 24 0024. Mirko Dettori, buongiorno. Buongiorno amici amici. Eccoci qua. Mirko Dettori, anche dotato di autosigla, penso autoprodotta dal vivo, se non sbaglio. Io ho sempre i miei strumenti in casa, da artista, diciamo, sto vivendo questa situazione chiudendomi nello studio e in tutto ciò che un artista può fare all'interno della propria casa. Allora, ricordo chi sia Mirko. Ha partecipato altre volte alle nostre trasmissioni, è un musicista, ma ha fondato a Roma un locale, la Conventicola degli Ultramoderni, che per le sue stesse caratteristiche immagino in questo momento sarà chiuso, e ci saranno anche delle difficoltà per pensare come, dove, in che maniera si riapre. La Conventicola è chiusa, Mirko, in questo momento? Beh, certo, noi abbiamo chiuso, devo dirti, abbiamo chiuso anche prima dei decreti, perché il fine settimana, quello 6, 7, 8 marzo, e la settimana appena precedente già si percepiva quale sarebbe stata la direzione, quindi abbiamo fatto una scelta di coscienza, diciamo, anticipando i vari decreti. Considera, io, Gianluca, da artista, da musicista, ho sempre condotto una vita di tipo libero, anarcoide, non ho mai avuto bisogno dello Stato che mi imponesse delle cose, e quindi non ho avuto bisogno che lo Stato mi imponesse di chiudere per chiudere di coscienza, senza far correre rischi ai musicisti, ai nostri collaboratori. Adesso io capisco, però Mirko, tu hai un locale molto particolare, un locale che la sua stessa caratteristica di essere un luogo buio, chiuso, dove si fa burlesque, sì, si fanno canzoni, c'è un palcoscenico, è bello perché è proprio raccolto e quindi è molto difficile mantenere lì, diciamo, le condizioni di distanziamento sociale. Ma in generale tu sei una persona... Sei una persona che conosce la notte, gira la notte, ha esperienze, va per locali. Esiste secondo te una via di compromesso per cui noi possiamo in qualche maniera evitare? Perché sai, adesso le minacce che stanno arrivando, sia di tipo governativo, il ministro Speranza dicendo faremo uno spot, anche il governatore Zaia, faremo uno spot e vedranno i giovani come, in che maniera risponderemo. Immagino già degli spot tipo quelli dell'AIDS con l'alone viola, fanno dei giovani che prendono lo spritz e poi fanno vedere i lettini che entrano al pronto soccorso e le barre che escono, così si spaventano. Quindi? Che secondo me si fanno una risata, non è questa la maniera per comunicare oggi. Esiste una maniera però per far capire o per organizzarsi secondo te, visto che conosci le regole e conosci il mondo? Guarda, faccio prima una piccola premessa, giusto per dare una suggestione. Considerassero gli ascoltatori che la mia vita è stata suonare in locali piccoli, con gente a contatto, su piccoli palchi, canzoni romantiche che permettevano alla coppia di baciarsi, permettevano agli altri di conoscersi e di stare in questa situazione che secondo me è la rappresentazione della vita, della libertà, della bellezza al di là dello smartphone e di tutto ciò che è filtro, perché è musica dal vivo, è spettacolo dal vivo, è una conversazione non tracciabile. È quella cosa che noi vivevamo. Sì, però Mirko, in questo momento è la cosa più pericolosa che uno può proporre. Io sono finito. Gianluca, che devi fare? Certo. Io ti dico, guarda, sono di ottimo umore di mio, perché sono sempre stato un fatalista e ho sempre vissuto in modo da essere soddisfatto delle mie giornate. Crepassi adesso non avrei rimpianti. Questa è una buona cosa, quindi per questo riesco a tenere una stabilità emotiva. Io sono finito. Il mio messaggio è stato per anni: ragazzi, uscite di casa, incontratevi nei posti reali, guardate le cose che succedono, che non sono filtrate da nessuno, venite a godervi la vita reale che c'è nei club di spettacolo. E beh, adesso questo messaggio umanista, diciamo neumanista, è assolutamente compromesso dal fatto che Tu sei uscito in queste sere, perlomeno diciamo, nel giro dei tuoi colleghi, di quelli che fanno il tuo lavoro, vi state ponendo il problema come facciamo a riorganizzarci per dare un servizio, visto che in questo momento nei locali angusti, nei locali per pomicioni, nei locali con la musica di un certo tipo, non si può entrare. Jazz club, noi stiamo parlando di jazz club, capito? Poi non è che parliamo, io non sono neanche mai stato davanti alla movida, devo stare in piedi fuori da un bar col bicchiere in mano a ciondolare, a parlare del nulla. Io sono sempre stato un frequentatore di teatri, di jazz club, di locali di pubblico spettacolo, di associazioni. Quindi io credo che, guarda, io parlo per me stesso, Gianluca, perché io non sono un esperto né faccio il politico. Io credo che quando noi riapriremo sarà quando questa cosa è passata direttamente nel dimenticatoio. Cioè, mentre la gelateria, no, però quello che stai dicendo, Mirko, mi fa riflettere su un particolare. Nessuno in questo momento ha fatto attenzione a questo segmento, a questa fetta di attività relazionale promiscua notturna. Nessuno dice non andate nei locali, perché è dato per scontato che i locali sono chiusi, almeno i locali di un certo tipo, dove si fa musica di un certo locali tipo. Locali notturni è ancora obbligatoria la chiusura, diciamo. Perfetto. Anche se la nostra commercialista l'altro giorno ci ha detto, ma sì, secondo me potete distanziare, fare, potete trovare la scappatoia. La commercialista ha fatto il suo buon lavoro. Che fai? Fai entrare due per volta, fate lo spogliarello, poi quelli escono e ricominci da capo. Dai, io credo possibile. Che chi ha un senso di missione di vita, di senso anche della società, come ho io nel momento in cui porto la gente, porto l'intrattenimento, lo spensiero, l'astrazione, che l'intrattenimento, che l'arte, la musica riescono a dare. Ecco, chi ha un pensiero di questo tipo è difficile che possa buttarla tutto sull'economia. Certo, poi dopo chiederemo ai nostri governi di darci sussidi, di dare, no, ognuno ha il suo lavoro. Io sì, non amico, torniamo un attimo al problema di partenza. Ho capito, però la cosa che trovo paradossale... Io guardo da artista, io da artista non mi posso porre, non mi posso porre come un capitalista. Io da artista non mi posso porre come un capitalista che dice io devo uscire perché devo guadagnare. Io da umanista ho un pensiero di autoconservazione della specie. Qui tu dici io continuerò a suonare, cerco diciamo di sopravvivere come posso. Sto imparando a suonare la tromba, sto imparando a suonare la tromba, in giro di 2 mesi ho fatto già buone cose, stiamo pensando a un plot che poi eventualmente potremmo proporre a qualche canale web, qualche Netflix di turno. Che è una cosa per me orribile, perché io ho sempre odiato, a me di Netflix, a differenza tua che so che sei un buon utente di serie, a me invece che sono un pre-corrente elettrica a livello di riferimenti culturali, capito? A me di stare a casa a guardare Netflix spaparazzati sul divano mi faceva orrore prima e mi fa ancora orrore oggi. Penso che faccio orrore anche agli altri, visto che hanno voglia di uscire. Fermati un attimo, si vede che tanto tempo che stai da solo, perché attacchi a parlare e non ti si ferma più. Io però riportarlo un attimo su quello che è il problema su cui oggi ci interroghiamo, e dammi una mano, perché tu conosci meglio di me, proprio perché la sera non stai a casa davanti a Netflix, come sono i flussi della notte. Il fenomeno che emerge in realtà non ha nulla a che fare con la produzione artistica, con l'intrattenimento legato a delle categorie del gusto che omogenee si vedono in un certo punto. E non è esattamente così. Sono le persone che la sera hanno l'abitudine di vedersi una certa ora con il bicchiere di plastica in mano, ciondolare davanti al bar e magari prendere gli appuntamenti o passare il tempo per andare poi magari, si augura, in posti tipo il tuo. Ecco, per questo tipo di transumanza, secondo te, esiste un'alternativa? C'è una maniera per riuscire a convincere, senza gli spot che stanno preparando con ragazzi col bicchiere in mano e poi magari con le canne infilate in gola, per fargli vedere che è difficile? Tanto non funziona. I ragazzi sanno che per loro il rischio è limitato. Il problema è di quelli più anziani. Io mi sono sentito dire più volte alle persone a cui ho posto questo problema: "Stattene a casa, tu rischi, tu siccome hai una certa età". Io non rischio, a me che mi importa, mi devo godere la mia vita. Tuo figlio ti contagia, non è mica così. Sì, sì, certo, è chiaro. Perché quello che ho detto a mio figlio, ma quando torni a casa sono io. Scusa, dire, vabbè, tu sta a casa, chiuso in una stanza, io vado e esco perché non posso smettere. Ecco. È così. Però. Fermo un attimo. Roberta da Milano, prima ascoltatrice, poi sentiamo. Roberta. Ciao a tutti. Senti, volevo semplicemente... Cosa sei, una giovane, una mezza età, una vecchia? Cosa no, sei, no, per no, capire? Mezza età, mezzissima età, più vecchia che giovane. Però diciamo che vivo come una giovane anche se sono vecchia. Allora, trovo sopravvalutatissima questa cosa dell'aperitivo. Sembra che adesso la gente non si possa più incontrare se non c'è l'aperitivo. Oltretutto, questa situazione ci dà la possibilità di vivere nuove cose, di creare nuove condizioni. Adesso anche il signore che parlava prima, che fa musica dal vivo, ma perché non trovarsi organizzando delle cose anche estemporanee? Ma st'aperitivo è necessario, ragazzi? Sembra sì, una però cosa, Roberta, da poveri... non facciamo lo sbaglio di... fermo un attimo, sono i 31, devo dare la linea. Resta lì in linea, poi ti dico come ti rispondo, perché sennò facciamo esattamente un errore generazionale sempre stato fatto rispetto a fenomeni di aggregazione giovanile. Ci fermiamo un istante e poi ti rispondo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Yeah. 0024. Ringrazio innanzitutto Valeria Berdardi in regia a Milano, Giorgio De Luca in assistenza a Roma, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a casa sua. Oggi cerchiamo di parlare un po' del fenomeno Movida dei giovani. Mi scrive sul gruppo Meloga Parlato su Telegram una fedele ascoltatrice che dice: d'altronde la giornata è in pieno possesso degli Umarell, è vero, gli Umarell girano continuamente tutto il giorno per farmacia alla ricerca di mucchina, a passeggiare, tutti, diciamo, la città è loro al 100%, la sera si ritirano, è giusto che escano i giovani. Però esiste il problema oggettivo che i giovani, vivendo in maniera promiscua, come nella loro abitudine serale, aperitivi, stazionamenti col bicchiere in mano davanti ai locali, dentro i locali, senza mascherine, sono veicoli di possibile contagio. Aveva chiamato un'ascoltatrice che aveva detto dal suo osservatorio, non credo che ce l'abbiamo più in linea, dal suo osservatorio di mezza età, ha detto: ma se vuoi finirla, cos'è questa moda dell'aperitivo? La moda dell'aperitivo è la maniera che hanno in questo momento, in questo particolare frammento di storia della nostra società, le giovani generazioni per incontrarsi, per comunicare tra loro, per scambiarsi messaggi. Sono fatti loro, e non sto a criticare sia bello, brutto, sciocco, stolto, intelligente farsi l'aperitivo in piedi, sono fatti loro, è che sono abituati a farlo, l'hanno sempre fatto e oggi non vedono perché non devono continuare a farlo. Roberta da Milano, buongiorno. Ecco, sono sempre io. Allora, sì, è giusto quello che dici. Ah, si era l'ascoltatrice di prima, si era, l'avevano mantenuta, perfetto. Sempre quella di prima. Mantenuta in vita, sì. grazie a Dio. È giusto quello che dici, però è anche vero che probabilmente una delle grandi virtù di questo virus è che magari potremmo anche fare dei cambiamenti. Cioè, non è né più forse necessario pensare per forza o mettere i giovani in condizioni per forza di doversi vedere in queste condizioni, cioè con un bicchiere in mano di un alcolico il più delle volte pessimo, ma adesso non possono neanche mangiare niente perché è proibito. Vabbè, però capisci, sono fatti loro, se lo si divertono, sì, così. Capisco che sono fatti loro. La nostra generazione si è divertita sull'istigazione della febbre del sabato sera a fare delle cose più orribili, a ballare nei posti bui, puzzolenti, pieni di fumo. Sì, abbiamo per dire, lo so, ma anche noi eravamo abituati a far quello. Diciamo che dal 45 oggi i ragazzi sono abituati a fare quello che piffero vogliono. Non ci sono state guerre, non ci sono stati cataclismi, non ci sono stati, sì, gli anni di piombo che per un periodo hanno impegnato le attività giovanili verso una sorta di ideologia politica. Magari fine. Questa è un'occasione per portare magari, che so, arte, musica, un modo diverso di concepire la serata. Sì, ma non è che possiamo andare in giro col megafono e dire: ragazzi, occupatevi d'arte, andate nei musei, sentite la buona musica. È un atteggiamento molto umarellico. I giovani fanno questo, le cose sono due: o fanno come sta pensando il presidente Conte, facciamo nuovi controlli, aumentiamo le sanzioni, ma fino a un certo punto poi le sanzioni le pagano i genitori. A chi prende lo spritz davanti al locale, che ha un'età media dai 15 ai 25 anni, nel 90% dei casi la sanzione la paga il papà e la mamma. Può anche far finta che gliene importa fino a un certo punto, poi lo vedo le persone a sanzionare 300-400 persone di fronte a dei locali tutte assieme. Ci sarebbe il fuggi, non è oggettivamente possibile o è molto difficile. Mirko Dettori, dovevi dire qualcos'altro rispetto a quello che ha detto la signora? Ricordo che è un musicista, ha fondato il locale a Roma, la Conventicola degli Ultramoderni, locale chiuso, che per le sue caratteristiche, un locale di musica d'amatore molto particolare, un locale che riporta il vecchio tabarèn, luci soffuse, ambiente fratrine, profumi di cipria e donne scosciate che fanno il burlesque, è un po' difficile pensare mascherine in bocca e distanziamento. Esatto, una delle cose che vengono suggerite oggi per lo spettacolo è quello di fare spettacoli teatrali con gli attori con la mascherina o distanziati di un metro. Credo che questa sia una condizione piuttosto irrealizzabile che probabilmente il governo propone. Mico, lo può fare una volta, vengono tutte le mammine pancine e le signorine del terrazzino a dire bravi, bravi, bravi. La seconda volta la gente si rompe le palle, non ci va più, ma certo, figurati. Certo, che divertimento c'è. Vabbè, insomma, la cosa che voglio dire, ecco, mi dispiace veramente per tutti quelli che sono nella mia condizione come artisti, perché in questo momento essere degli esternatori, dei comunicatori è una cosa che ci è impedita. Quindi però dobbiamo... Gio, tu sei fra quegli artisti che dice noi abbiamo fatto una scelta radicale, essere artisti vuol dire comunque stare da una parte di totale libertà e presa a distanza del rispetto delle leggi, dello Stato, da quelle che sono gli usi della gente che non ha la nostra ispirazione. L'artista alla fine non è che nel momento in cui si trova in difficoltà poi va lì e chiede i sussidi, gli aiuti, i soccorsi. Ma questo succede, ma tutti gli artisti che hanno lavorato nelle situazioni che possono consentire il lavoro ordinato e con un pensiero al futuro lo hanno fatto, perché chi insegna nelle scuole, voglio dire, prende il sussidio, chi lavorava nelle orchestre, in televisione, in teatro, insomma la gente viene pagata normalmente come gli altri lavoratori. Certo, il problema è quando si parla di locali che hanno un'utenza di poche decine di persone, in questo caso certamente i pagamenti a fine serata diventano come delle mance e si finisce a essere degli invisibili, ma degli invisibili che ci ha fatto comodo essere fino a ieri, capito? Oggi quindi improvvisamente rivendicare un'esistenza qualcosa va in contrasto. Il mondo è bello perché è fatto di persone variamente organizzate nel loro pensiero. Questo è il tuo pensiero, è fantastico, meraviglioso, poetico, e in questo momento è giusto anche rappresentarlo. Davide da Bologna. Davide da Bologna. Io sono molto felice di sentirla, la seguo anche sui social e sono d'accordo completamente sul suo punto di vista riguardo al fatto di aver troppo anticipato il lockdown. Però trovo incompleta questa trasmissione, questo singolo episodio che parla di giovani senza giovani. Io ho 22 anni. Guardi, giovani, sono... l'ho invitati all'inizio, dico telefonate, sì, però ti ascolta, io ascolti. Ho 22 anni, signor Nicoletti, cioè è una cosa diversa. Quindi, ragazzi di cui lei parla, che vanno nelle discoteche, soprattutto quelli che si sono sentiti dopo lo stacco pubblicitario, erano dei ragazzi che sicuramente magari erano molto contenti di essere tornati alla movida, ma io trovo che in questo episodio si stia... si è emergendo soltanto una faccia della medaglia. Sicuramente tra quei ragazzi c'erano. Ci faccio arrivare alla fine, aiuti a trovare l'altra faccia. Questa trasmissione si basa sul contributo del pubblico. Semplicemente è sbagliato far risultare che i ragazzi, tutti quanti i ragazzi, siano incoscienti e responsabili. Questo voglio dire. Vabbè, ma che fa l'avvocato d'ufficio della categoria dei ragazzi, scusi, faccia capire. Guardi, sulla giurisprudenza questo? Spero che... Sì, ma è anche una brillante carriera, ma in questo momento, scusi, mi condensi il significato del suo intervento, cosa deve dire? Siamo qua, il mio intervento è semplicemente che è una premessa emergendo finora da questa trasmissione che i ragazzi siano la maggior parte responsabili, che non vedono l'ora di tornare ad ubriacarsi, a uscire, ad andare in discoteca, quando in realtà non lei è tutta la realtà. Ma lo sta dicendo lei? Ma non l'ho mai detto, lo sta dicendo lei. Non l'ha mai detto, ma sicuramente è un significato che poteva lasciarsi intendere. Ma vabbè, senta, avvocato, è giusto lei magari faccia esercizio di pratica con questa trasmissione, ma mi sta facendo perdere tempo, non dà nessun contributo utile. Guardi, una premessa da Umarell dicendo lei ha oltraggiato la categoria dei giovani. Ho due figli giovani, figuriamoci, li seguo con amore e con attenzione. Ho detto il problema, l'attenzione della cronaca è vedere gente per strada in atteggiamento pericoloso per la salute pubblica. Non si può nemmeno dire a queste persone chiudete con le vostre abitudini, perché sarebbe disumano a dei giovani che non hanno mai avuto nessuno stop alle loro abitudini. Quindi troviamo un'equazione che metta d'accordo l'istanza dei giovani di uscire e fare quello che piffero vogliono, non giudico, anche di ubriacarsi. Io sono tornato più sera a casa ubriaco alla sua età, che lei nemmeno se l'immagina, quindi non sta parlando un bacchettone, assolutamente. Non capisco il suo intervento, comunque l'ho fatta parlare e il suo tempo è finito. Abbiamo Fabio Minuz, buongiorno. Fabrizio, mi ero un po' infervorato con il giovane aspirante avvocato. Allora, Fabrizio, non ti preoccupare. Tu sei un DJ, quindi sì. DJ dell'89, quindi non sei esattamente un giovanissimo, ma sicuramente conosci il mondo dei giovani. Vediamo se riesci in qualche maniera a rispondere alla domanda che mi ero posto anche io. Però devi farlo fra un minuto, perché esattamente è finito un'altra volta il mio tempo, è sempre più veloce, sempre più contratto. Io ti voglio dire semplicemente: esiste una formula per risolvere questa equazione difficile, permettere comunque delle circostanze di sicurezza e di salvaguardia della salute pubblica, e non dire ai giovani: vi mando i vigili, vi arresto, vi faccio la multa, mettetevi la mascherina e via dicendo. Ci sarà pure una maniera per dare un'idea di convincimento che possa esserci un'alternativa mediata allo spritz, all'uscita, alla movida, che non metta a rischio la salute generale di tutti. Ci fermiamo un istante. Melog. Abbiamo al telefono Fabrizio Minuz, che è un DJ dal 1989. Abbiamo chiesto a lui, visto che è un conoscitore più sicuramente di chi sta parlando in questo momento dei flussi, delle transumanze giovanili, se esiste una equazione per riuscire a risolvere questo grosso problema di cui stiamo parlando questa mattina. Tra l'altro mi ci sono anche laureato in scienze politiche con una tesi analisi delle strategie dell'intrattenimento notturno con il professor Minardi. Scusami, però io permettimi di fare un piccolo inciso collegandomi un attimino alle parole che ha detto prima il collega. Noi oggi paghiamo un po' la nostra invisibilità, perché se al comma M di questo DPCM viene detto che i locali da ballo, le discoteche all'aperto o chiuso rimangono sospese, cioè così in maniera abbastanza drastica, in maniera abbastanza precisa, un po' a te la speme, nego anche la speme, d'altro non brilli gli occhi d'oggi, non ti pianto, è perché noi siamo assolutamente invisibili come categoria. Se un Formigli si può permettere di deriderci con la professoressa Viola facendola sorridere, dire: ecco, quando pensate alle discoteche pensate al sorriso della Viola, ma come pensa? Attenzione. Fabrizio, no, cos'è che ha fatto Formigli? No, questa mi interessa, figurati. Ho fatto anche un video su Facebook. Tra l'altro cosa ha fatto? Ha deriso la categoria dei DJ? Formigli si è permesso di deridere completamente. Tra l'altro c'era il proprietario di un locale da ballo e dicendo: noi adesso stiamo ripensando per la riapertura, la professoressa Viola comincia a ridere e Formigli, ecco, guardate, in maniera abbastanza proprio con una violenza nei confronti della nostra categoria. Quasi contento, quasi che gioiva, diciamo, di questa sorta di impossibilità. Se, voi delle discoteche, ma di che parliamo? Cioè, è stata una cosa che a me mi ha lasciato veramente basito, dato da un giornalista. Cioè, ci sono 3 milioni questo faceva trapelare che Formigli in realtà ha un punto di vista bacchettone, che voleva i ragazzi comunque in eterna quarantena. Questa è la tua interpretazione. Sì, e la discoteca fa parte del mondo del futile che non deve aprire, questa è la cosa. Proprio, noi creiamo problemi, siamo quelli della scherzando, non è esattamente avrà pensato, dice, in questo momento stiamo pensando a problemi di sopravvivenza. Non è questo il problema. Il problema andiamo al punto, la tua battaglia su Formigli, adesso dimmi esattamente come la pensi. Noi oggi paghiamo lo scotto della invisibilità, e quindi questo autorizza il governo a dire: voi adesso state chiusi, sospesi, e non ci rompete le scatole. A parte che noi stiamo cercando Fabrizio, ma quello che chiedo a te e al tuo collega, non mi avete ancora risposto. Sì. Il governo dice: in questo momento ho delle priorità, mettitici te al posto di Conte, che ho mille motivi per criticare, capito? C'è la gente che muore, c'è il lavoro che deve riprendere, figurati, le discoteche vanno al posto X delle mie priorità, anche perché nelle discoteche è molto difficile evitare che le persone stiano a contatto, non si sfiatellino addosso, non abbiano il droplet che vola e contamina, se me lo consenti è proprio il contrario. Arrivaci però. Perché se tu autorizzi l'apertura di una movida così incontrollata, è chiaro che i bar rimangono aperti, i ragazzi si ammassano come lo è sempre stato, privi di ogni regolamentazione. È chiaro che poi dopo... Ma infatti il bar di Padova in questione ha detto: io da domani chiudo, faccio solo per asporto, mica voglio rischiare una multa. Un barista a soldare un esercito di mercenari per tenere i ragazzi in fila e distanziati, questo lo capiamo benissimo. A maggior ragione, se tu invece apri delle strutture come i locali da ballo e le autorizzi eventualmente anche per spettacoli di tipo statico, cioè tu ti metti seduto e assisti a uno spettacolo in spazi come per esempio noi nel locale qui di Misano ci stiamo organizzando per fare, regolamentando piano piano il paziente Italia che sta per uscire da una grave malattia, facciamo camminare piano piano. Quello che vi sto chiedendo, Costantina, proprio perché sono d'accordo con te, E cominciamo a pensare con grande fantasia, grande spirito di rimessa in discussione tutte le nostre certezze, le formule alternative, perché finché esisterà il pericolo e dovremo coabitare con un virus che ammazza le persone comunque e le ammazza anche in maniera abbastanza massiccia, sarà difficile che qualcuno ti autorizzi a riempire un locale di gente che balla e si suda addosso. Quindi qual è l'alternativa? Regolamentare gli ingressi all'interno delle strutture come locali da ballo, eccetera, eccetera, che sono già organizzate proprio per questo, perché noi possiamo organizzare dei flussi in modo da quindi mantenere... Quindi diciamo, vediamo se riusciamo a capire, dei flussi su prenotazione, fare uno sportello online in cui la gente si prenota l'entrata in discoteca. Oltre un certo numero non entra più nessuno, perché quello è il numero. Così almeno si lavora. Stiamo arrivando al concreto alla fine, quello che sto chiedendo dall'inizio. È questo, è esattamente questo. Io apprezzo tantissimo la tua capacità sono concreto. Il senso è questo, cioè non ci tenete chiusi così, perché poi se ci tenete chiusi così, questi ragazzi, io ho un figlio di 15 anni, che tra l'altro per farlo riuscire fuori di casa e scollarlo dalla PlayStation, ma ho dovuto fare i rosari per farlo riuscire. Sì, ho capito. Sono d'accordo, anche mio figlio maggiore l'altra sera mi ha detto: io devo uscire con le amiche, con gli amici, papà, non ce la faccio più. È uscito, ha tenuto le sue regole che conosce bene, con i suoi amici, è uscito, ha fatto il suo giro, ha mangiato una pizza. Io vorrei sfatare un mito, scusa, io mi ricollego un attimo all'avvocato che ha chiamato prima. Non facciamo tutto un erban fascio. I giovani. Ma chi fa un erban fascio? Chi mi segue lo sa che non faccio mai un erban fascio. Credimi, mio figlio mi ha dato molte più lezioni di civiltà di quanto io potessi immaginare. Ma quindi, figurati, io ho scritto un libro, io figlio di mio figlio, perché io imparo dai miei figli, figurati. Ma infatti questo non è assolutamente. Torniamo al punto, allora, Fabrizio, perché voglio portare delle cose pratiche. Tu hai detto esattamente. Dobbiamo noi cominciare. Io però quello che posso dirvi, secondo me, non aspettate che sia qualcuno a pensarlo. Diventate architetti voi della nuova formulazione, il nuovo format del vostro lavoro. La discoteca, che è una formula che nasce nei primi anni 70, è rimasta più o meno immutata fino ad oggi. Probabilmente in questa fase è l'occasione per ridisegnare un nuovo format. Quello che mi hai detto va bene. Ingressi contingentati, spettacoli di tipo diverso, musica di tipo diverso. Ma fermo un attimo. Ampelio Zecchini, titolare del cocktail bar Riserva del Grande a Brescia. Così facciamo un'altra categoria, diciamo, di operatori del tempo libero dei ragazzi. Buongiorno Ampelio. Buongiorno. Ecco. Lei ha sentito più o meno, ha parlato un titolare di locale dove si fa musica particolare, il titolare di un DJ che lavora in una discoteca, lei che lavora in un cocktail bar, qual è secondo lei la formula in questo momento, se ci riusciamo a farlo in 2 o 3 minuti che ci separano dalla fine, la formula per riuscire a soddisfare se possibile il desiderio dei giovani, passare il loro tempo come meglio credono, le vostre esigenze di imprenditori e la salute pubblica? Allora, innanzitutto, super brevissimamente, penso che la settimana che stiamo vivendo sia molto importante per farci un'idea anche del comportamento generalizzato dei clienti che torneranno nelle varie situazioni di ristorazione, cocktail bar, pub, eccetera. Quindi servirà anche a quello. Io, ad esempio, sono ancora chiuso. Questo weekend sarò chiuso anche per vedere come si evolve la situazione e quali indicazioni possono uscire. Fate conto che la nostra è una città, come immagino ben sappiate, forse è inutile che lo dica. Brescia è una città rischiosissima in questo momento. Poi colpita, il che ha anche dei riflessi a livello psicologico sulle persone, compresi i proprietari di locali, compresi i proprietari di ristoranti e i clienti. E perciò sto vedendo innanzitutto una capacità di dialogo. Mi serve una risposta concreta in un minuto. Prego. La sua osservazione è intelligente, lei ha guardato cosa succede dagli altri, poi apre. Cosa ha capito e cosa cambierà rispetto alle abitudini di titolare di un bar dalla prossima settimana? C'è un suggerimento, una cosa pratica in più che si possa fare? Allora, io mi sento solo di poter dire che si partirà sicuramente con la metà dei posti disponibili, se si è coscienziosi e si mantengono distanze serie, e e da lì se ne parlerà, si partirà quindi senza i dipendenti di prima, si partirà facendo prenotazioni, si partirà cercando di discutere con le istituzioni come mantenere le distanze anche all'esterno dei locali. Sono tante cose, mi spiace non poter dare una risposta magari così. No, però guardi, appello, è stato utile, perché una cosa abbiamo portato a casa in questa discussione che può sembrare anche disordinata, ma ha un senso. Bisognerebbe in qualche maniera creare dei sistemi per cui i giovani capiscano che in questo momento è forse meglio organizzarsi prima e un po' prevedere quello che sarà la serata, in modo che non tutti assieme in maniera randomica si va negli stessi posti, ma ci si divide i posti dandolo a lavorare anche a più persone secondo una scaletta che permette degli ingressi contingentati. Saremo in meno, ma faremo comunque le stesse cose, in meno persone e forse anche un po' più distanti. Io ci ho provato, poi fate un po' voi. Alla prossima.